Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La tregua con Hamas non è in agenda, dice il premier israeliano Netanyahu. Tel Aviv ad un passo dall'azione di terra. Continuano i raid, le vittime palestinesi si contano a decine, mentre razzi continuano a cadere sul territorio dello Stato ebraico. Un calo inaspettato quanto a dimensioni, una ripresa che stenta a vedersi. La produzione industriale scende dell'1,2% in maggio rispetto al mese precedente e dell'1,8% rispetto ad un anno prima. Borse molto pesanti, mentre l'Istat comunica che aumenta il numero di depressioni a causa della crisi. Cadono pezzi di marmo da Palazzo Reale a Napoli, zona Transennata. Indagate 5 persone intanto per la morte di un ragazzo di 14 anni colpito dai calcinacci in Galleria Umberto I. Sulle riforme non c'è accordo, dice uno dei relatori, il leghista Calderoli. Esame in aula rimandato a lunedì ed è là che, aggiunge, saranno sciolti i nodi. Dunque sarà Germania e Argentina per decidere il mondiale, con mille suggestioni, compresa quella di chi la chiama già la finale dei due papi. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete le potete commentare come sempre al 349-238-6666 via SMS dunque, oppure sulla nostra pagina Facebook o volendo scrivendomi su Twitter Simone Spezia. Tra poco parleremo della crisi, perché ci sono questi dati preoccupanti che sono arrivati sulla produzione industriale e che hanno anche un impatto pesante sui mercati. Anche su questo arriveremo più avanti. Iniziamo però dalla situazione in Medio Oriente. Si aggrava di ora in ora il bilancio dei palestinesi uccisi a Gaza. Nel terzo giorno di raid aerei israeliani se ne contano a decine. In Israele, intanto, in uno scenario che assume sempre di più i contorni di una vera e propria guerra, continuano a suonare le sirene d'allarme per i razzi lanciati dalla striscia di Gaza. 365 in tre giorni, uno ogni 10 minuti. Tra Hamas e Jihad, secondo Israele, a Gaza sarebbero nascosti 11.000 razzi. Altissima l'allerta nella zona di Dimona, dove si trova la centrale nucleare israeliana, protetta come il resto del territorio dal sistema di difesa antimissili Iron Dome, che ha evitato finora vittime nello Stato ebraico. Israele, secondo quanto si è appreso, sta iniziando le operazioni di schieramento di carri armati lungo il confine con la striscia. Se i razzi non cesseranno, l'operazione terrestre sarà inevitabile, ha detto il presidente israeliano Peres. Una tregua con Hamas non è in agenda, ha dichiarato oggi il premier Netanyahu, liquidando l'ipotesi di un cessate il fuoco in questa fase. E mentre l'Egitto apre il valico di Rafah per l'evacuazione dei feriti palestinesi, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà in mattinata alle 16 in Italia una riunione d'urgenza a porte chiuse. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per un'analisi su tutto questo torneremo più avanti. Nel frattempo parliamo, come si diceva, di economia. Continua a peggiorare la borsa italiana in queste ore. Il FTSE MIB cede il 2,38%, il FTSE All Share il 2,34%, a fronte di mercati europei che cedono circa l'1,5%. Giornata molto pesante anche a causa dei dati arrivati sulla produzione industriale. Torna in rosso la produzione industriale italiana, che dopo il dato positivo di aprile a maggio fa registrare un calo dell'1,2% su base mensile. È il risultato peggiore dal novembre del 2012. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno la flessione è invece dell'1,8%. Lo rileva l'Istat, che parla di dato molto negativo e al di là delle previsioni. Sul risultato, secondo i tecnici dell'Istituto di Statistica, potrebbe aver influito il minor numero di giornate lavorate a causa del ponte del primo maggio. Le flessioni mensili maggiori riguardano i beni strumentali, quelli intermedi e quelli di consumo, che registrano cali fra l'1,7% e l'1,5%. In controtendenza soltanto il comparto dell'energia, cresciuto dello 0,8%. Nella media dei primi 5 mesi dell'anno la produzione industriale resta comunque positiva, è cresciuta dello 0,1% rispetto al 2013. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente anche di crescita in una giornata nella quale l'Istat ha diffuso anche altri dati, sono quelli che riguardano la depressione. Secondo il nostro istituto di statistica, proprio la crisi ha avuto effetti sul numero di depressi. Il problema mentale più diffuso in questo momento riguarda oltre 2,5 milioni di persone, con prevalenze doppie tra donne in tutte le età. Si diceva, in questa giornata di crescita si è parlato anche all'Assemblea dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Massimiliano Zampini ha seguito i lavori per noi. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, senza dubbio la crescita è stata il tema dominante di questa Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, e di crescita hanno parlato in particolare il governatore della Banca d'Italia Visco e il ministro del Tesoro Padoan. Il numero uno di Banca Italia ha parlato appunto di una ripresa che stenta ad affermarsi e ha puntato molto ovviamente sugli strumenti di politica monetaria messi a disposizione della BCE con le sue ultime mosse, attraverso cui si spera possa arrivare un sostegno più deciso all'economia. Quindi sentiamo il ministro e il governatore Visco. Gli effetti sull'economia italiana dell'insieme di misure adottate in giugno potranno essere rilevanti. Mantenute nel tempo, le variazioni dei tassi di interesse e del cambio che hanno fatto seguito agli annunci di quelle misure determinerebbero un aumento del PIL stimabile in circa 0,5 punto percentuale da qui alla fine del 2016. Ecco, con queste misure e anche con quelle per nuovi finanziamenti al sistema bancario da riversare su quelle delle imprese, ha detto ancora Visco, il sostegno all'economia italiana potrebbe addirittura arrivare a un 1% nei prossimi 2 anni. Di crescita debole e incerta ha parlato anche il ministro dell'economia, che però ha sottolineato che per un rilancio del sistema economico non esistono scorciatoie. Tuttavia Padoan ha parlato di una finestra di opportunità, perché c'è un grande interesse da parte degli investitori internazionali sul nostro paese, ma un interesse che non durerà troppo a lungo. Ma sentiamo sul tema della crescita il ministro Padoan. Che ci debba essere un orizzonte di medio termine è indispensabile. La crescita è un processo complesso, spesso non ben compreso. Soprattutto non ci sono scorciatoie per la crescita. È necessaria una strategia a più piani. Ecco, il ministro Padoan ha detto appunto, nell'ottica di una crescita di lungo termine e di medio lungo termine, che è fondamentale anche per ridurre il debito. Su questo tema il ministro ha ribadito che l'Italia intende muoversi nel pieno rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, ma allo stesso tempo di sfruttare tutti i margini in termini di flessibilità che il patto consente. Grazie al nostro Massimiliano Zampini. Nel frattempo si è parlato di Europa e di poco fa la notizia che la Commissione Europea ha ingiunto formalmente all'Italia, con l'invio di un parere motivato, di recuperare presso i produttori di latte multe per le famose quote latte per 1,395 miliardi di euro. Sono multe dovute al superamento delle quote di produzione, come sapete, tra il 1995 e il 2009. L'annuncio appunto è arrivato da Bruxelles, dalla Commissione Europea. Veniamo a Napoli. Il giorno dopo la morte del ragazzo colpito ai calcinacci caduti in galleria Umberto I, oggi alcuni pezzi di marmo si sono staccati dalla facciata dell'ingresso principale di Palazzo Reale a Piazza del Plebiscito. L'area dove era prevista l'apertura di un cantiere per lavori di restauro e manutenzione il prossimo 21 luglio è stata transennata per alcuni metri. Fortunatamente non vi sono feriti. Intanto per quella vicenda, la vicenda di Salvatore, ci sono degli indagati. Omicidio colposo, 5, ma potrebbero essere anche 6 gli indagati. I magistrati che chiedono una superperizia sul crollo della facciata della galleria Umberto I. Avviata l'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del ragazzo di 14 anni, vittima della caduta dei calcinacci sabato in pieno centro a Napoli. Quanto prima si cercherà di sciogliere il groviglio di competenze e responsabilità sulla tragedia. 2 i punti da chiarire. Il primo, i ripetuti allarmi inascoltati sui cedimenti che si registravano in galleria. Secondo, di chi è la responsabilità scaricata in queste ore tra proprietà pubblica e privata. Nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Salvatore Giordano, successivamente un accertamento tecnico sulle parti interessate dal crollo. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale fotografico e audiovisivo fornito da abitanti della zona e commercianti. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Buongiorno a Tilio Wanderling, che è gestore di un caffè letterario che si chiama Intramenia, che è anche il nome della sua casa editrice. Ci sposiamo in un'altra galleria di Napoli, Galleria Principe di Napoli. Buongiorno Wanderling, sì. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, l'abbiamo chiamata perché in realtà proprio in quella galleria c'è stato anche là un crollo di calcinacci 10 giorni fa. Quando è successo? Sì, ormai una ventina di giorni fa, ma non è questo il punto fondamentale, che l'intera galleria posta di fronte al Museo Archeologico Nazionale, 300.000 visitatori all'anno, l'intera galleria ormai cade a pezzi e l'abbiamo più volte denunciato. Si immagini che la volta in vetro, è ovviamente una galleria in stile Liberty, se ne cade a pezzi, i vetri sono pericolosamente incrinati e l'eventuale caduta di parti in vetro sarebbe veramente naturalmente pericolosissima. Sarebbe pericolosissima. Ecco, vi è arrivata, a voi che siete, diciamo, esercenti della zona, per così dire, è arrivata un'ordinanza del Comune di Napoli. Che cosa vi dice? Di dismettere qualsiasi attività culturale. Noi siamo un caffè letterario, dismettere le attività culturali significa la non ragione di esistere. Noi abbiamo fatto una scelta unilaterale: chiudere completamente la struttura, dismettere anche le attività commerciali come forma di protesta di questo decadimento totale, non solo della Galleria Principe di Napoli, ma di tutte le strutture monumentali e artistiche del centro storico di Napoli. Cioè, quindi che cosa vi ha detto il Comune? Di fatto non potete far camminare i turisti se non al centro della galleria, che cosa vi ha detto? Che sono a rischio tutte le attività che radunano folla, radunano turismo, fanno aggregazione, un vero e proprio controsenso per una città che invece deve vivere di aggregazione commerciale, culturale, turistica. Senta Vanderlick, sulla Galleria Umberto I, sa che ci sono un po' di rimpalli di responsabilità in queste ore tra i proprietari dei condomini, il comune e così via. Vorrei capire, la galleria della quale stiamo parlando, di chi è il proprietario di quella galleria? Interamente di proprietà del Comune di Napoli. Esistono tantissimi locali, addirittura 22 locali persino ancora sfitti, non assegnati per bando dal Comune ai privati, e quindi compete solo ed unicamente all'ente locale qualsiasi opera di manutenzione e aggiusto. Allora, la ringrazio, grazie per il suo racconto ad Attilio Wanderling, lo ricordiamo, è gestore di un caffè letterario che si chiama Intramenia, editore, la sua casa editrice si chiama appunto Intramenia, siamo in Galleria Principe di Napoli, grazie per il racconto. Parliamo di riforme adesso, perché insomma è arrivato proprio negli ultimi minuti un nuovo stop da parte di Roberto Calderoli, ha detto che l'accordo non c'è. Elisabetta Fiorito. Sì, diremo che è un tutti contro tutti oramai, perché non va veloce come credeva Matteo Renzi la riforma del Senato, da registrare un nuovo slittamento del disegno di legge che arriverà nell'aula di Palazzo Madama nella giornata di lunedì e non oggi, a causare lo sconquasso, direi Simone, gli sconquassi, molte forze politiche. Intanto una grana scoppiata con Forza Italia sulla composizione delle liste per il nuovo Senato non elettivo, in particolarità la modalità delle liste tra cui i consiglieri regionali devono scegliere. Poi il nuovo centrodestra protesta per la ripartizione dei seggi distribuita in maniera proporzionale ai gruppi consiliari e per loro si renderà quasi impossibile l'elezione dei piccoli partiti nel nuovo Senato. Il governo poi deve affrontare ancora l'incognita del Movimento 5 Stelle e di SEL che fanno ostruzionismo, e nella Lega Roberto Calderoli, che ricordiamo è uno dei relatori, contesta che la legge elettorale per il Senato vada messa in Costituzione come previsto da un emendamento dell'altra relatrice Anna Finocchiaro del PD. Quindi il voto finale della Commissione Affari Costituzionali era previsto per le 17.30 di oggi, vediamo adesso con questo nuovo strappo della Lega che si è consumato proprio in questi minuti. Il testo dovrebbe approdare in aula lunedì mattina. Il Movimento 5 Stelle continua a dire che non c'è bisogno di fretta, altrimenti la riforma sembra solo un trofeo mediatico da esibire ai capi di Stato europei. Quindi questo è un messaggio per il Premier Matteo Renzi. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, molto altro di cui parlare tra poco, a partire dai mondiali e passando anche per un'analisi, un commento sul Medio Oriente. Poco fa abbiamo sentito la cronaca e poi, come promesso ieri, torneremo sul tema del calo delle vaccinazioni, ma prima il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Israele ad un passo dall'azione di terra, continuano i raid, le vittime palestinesi si contano a decine mentre razzi continuano a cadere sul territorio dello Stato ebraico. La tregua con Hamas non è in agenda, dice il premier israeliano Netanyahu. Non c'è accordo sulle riforme, dice uno dei relatori, il leghista Calderoli, esame in aula rimandato a lunedì ed è là che saranno sciolti i nodi. Un calo inaspettato quanto a dimensioni, la produzione industriale scende dell'1,2% in maggio rispetto al mese precedente, molto pesanti le borse oggi, il FTSE MIB cede il 2,5% e il FTSE OSHARE il 2,4%. Cadono pezzi di marmo da Palazzo Reale a Napoli, zona transennata, indagati 5, forse 6 per la morte del ragazzo di 14 anni colpito dai calcinacci in galleria Umberto I. La Germania e Argentina per decidere il mondiale, la partita che già qualcuno chiama la finale dei due papi. Renata Tosi, sindaco di Riccione, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata perché sappiamo che c'è uno scontro in atto in merito al sistema di trasporto tra Rimini e Riccione, perché si vuole costruire una sorta di infrastruttura con una strada che permetta durante l'estate di portare i turisti rapidamente da un posto all'altro, in sostanza, e lei a questa cosa si oppone. Sì, mi oppongo semplicemente perché questa fantomatica infrastruttura non è altro che la realizzazione di una strada sopra elevata su un'altra strada, semplicemente per farvici passare sopra in via assolutamente riservata un autobus con gomme e a gasolio. Quindi io credo che relativamente all'importanza di comunque trasportare in maniera rapida ed adeguata i turisti lungo la costa, si possa serenamente raggiungere nel territorio riccionese utilizzando l'attuale sede stradale senza la necessità di creare inutilmente una strada sopra. Però l'idea, immagino, è là, mi scusi, sia di alleggerire un po' la strada normale, no? No, nel caso di specie no, perché il tragitto, il tracciato è lato monte della ferrovia, quindi un tracciato e un asse viario che oggi è già sufficientemente alleggerito. Già sufficientemente alleggerito, cioè non c'è traffico tra Rimini e Riccione? No, in quel tratto. Sulla litoranea è un tratto assolutamente ingolfato dal traffico, come logicamente lo è in tutte le città turistiche, io aggiungo anche evviva, perché è comunque sintomatico di una presenza importante nella nostra località che dobbiamo affrontare e dobbiamo andare a razionalizzare. La tratta invece del trasporto rapido costiero, o TRC che dir si voglia, è stato localizzato a monte della linea ferroviaria, quindi distante circa 700-800 metri dalla litoranea. E nel tratto riccionese questa è una strada alleggerita dal traffico, diciamo, prettamente estivo. Però da quel che ho capito lei è sostanzialmente da sola, no, in quest'idea di fermare questa infrastruttura, nel senso che il sindaco di Rimini la vuole, la regione la vuole e il governo mi sembra che nell'incontro che avete avuto ieri sia, insomma, orientato nel mantenerla. No, le questioni sono che logicamente io sono una novità in questo panorama politico romagnolo, in quanto vengo da una esperienza completamente nuova di un mese, dove la mia elezione ha sostanzialmente rotto quella catena di continuità del PD in queste località. Quindi non è che sono da sola su questa cosa, credo di esserlo e di esserlo per molto tempo, ma non guardo questo. Io oggi sono il sindaco, quindi sono il sindaco di tutti e soprattutto sono il sindaco portatore di interessi riccionesi che vogliono prima di tutto che quest'opera si inserisca nel tessuto urbano riccionese non in maniera invasiva, quindi senza la costruzione di un'opera che prevede la realizzazione di un muro alto 5-6 metri in alcuni punti. In seconda battuta devo anche tutelare quelli che sono gli interessi economici riccionesi, perché la mia proposta prevederebbe una riduzione totale dei costi dell'opera di 7-8 milioni di euro. Allora, abbiamo capito, grazie a Renata Tosi, sindaco di Riccione, abbiamo sentito la sua posizione e vedremo se domani o nei giorni successivi o quando ritorneremo a settembre avremo possibilità di sentire anche l'altra campana. Vittorio Emanuele Parsi, bentornato, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, editorialista e commentatore del Sole 24 Ore, benvenuto. Buongiorno. Per parlare di Medio Oriente, mi sembra che siamo ad un passo dall'azione di terra di Israele. Mi sembra che sia quasi inevitabile, nel senso che sia Netanyahu che Peres hanno detto: se continua il lancio di razzi sicuramente interverremo, e il lancio di razzi non si ferma. Sì, direi che ha ragione, siamo un passo oltre il punto di non ritorno, credo. Credo che questo siamo giunti sia per errore di calcolo degli attori in gioco da una parte e dall'altra, sia perché è molto cambiato il quadro di riferimento del Medio Oriente. Questo è il punto che mi interessa di più da lei, capire in che modo è cambiato questo quadro, perché abbiamo raccontato molto di quello che sta succedendo in Siria, abbiamo raccontato anche quello che sta succedendo a cavallo del confine tra Siria e Iraq, e quindi questa avanzata degli jihadisti. Tutto questo, l'Egitto, il cambio di regime in Egitto, tutto questo che impatto ha sulla crisi israelo-palestinese? Beh, intanto che non ci sono interlocutori forti a cui rivolgersi in chiave regionale per cercare di capire se questi possono fare un'azione di mediazione, intervento, in particolar modo nei confronti di Hamas in questo caso. E poi il fatto che gli Stati Uniti hanno perso gran parte della presa sul Medio Oriente. Questo è un processo che è iniziato con le rivoluzioni arabe e avrebbe potuto essere non così dannoso, per così dire, per gli equilibri regionali, se le rivoluzioni, le primavere arabe, fossero arrivate, diciamo così, in una fase di sviluppo, in un processo di sviluppo diverso da quello che è stato. Ma così, essendo le cose, abbiamo stati deboli, abbiamo avanzato di movimenti rivoluzionari, ma soprattutto abbiamo la messa in crisi di quell'organizzazione per stati che era l'ultima eredità, diciamo così, novecentesca, l'ultimo lascito occidentale al Medio Oriente, e che oggi è drammaticamente in crisi, dalla Siria all'Iraq, alla Libia, ma allo stesso Egitto, la Giordania. Grazie Vittorio Emanuele Parsi, sempre per le sue analisi puntuali, e saluto Sergio De Nardis, che è capo economista di Nomisma. Buongiorno De Nardis, benvenuto. Buongiorno. Per parlare di questo dato veramente pessimo sulla produzione industriale, un meno 1,2% in maggio rispetto al mese precedente, un meno 1,8% rispetto ad un anno prima. Certo, come dice l'Istat, ci sarà una micro componente che deriva dal fatto che quest'anno il primo maggio cadeva ottimo per il ponte, e quindi probabilmente di venerdì non si è lavorato, però evidentemente questo non giustifica tutto, no? C'è una debolezza evidente e complessiva, De Nardis, della nostra economia che prosegue. Sì, c'è una debolezza complessiva, certamente ferie, ponti e calendari incidono sul dato di un singolo mese, però questa tendenza è negativa anche facendo una media su più mesi, cioè i tre mesi determinanti ad aprile a maggio sono negativi in calo rispetto al trimestre precedente. Il punto è che questo riguarda noi, ma guardiamo anche al di là delle Alpi, riguarda la Germania, riguarda la Francia, riguarda la Spagna, e quindi è una battuta d'arresto, un calo, che riguarda un po' tutta l'Europa. Senza contare che gli ultimi dati sul PIL americano non sono particolarmente positivi, però voglio venire a noi. De Nardis, molto brevemente e nitidamente, visti questi dati, visti i dati sul prodotto interno lordo, ci toccherà un manovrone correttivo? Dunque, il manovrone correttivo sarebbe determinato dal fatto che il deficit è più ampio perché ci abbiamo più recessione di quanto immaginassimo. Ma allora, se è questo, non si dovrebbe proprio fare il manovrone correttivo, che ucciderebbe ancora di più il ciclo. E quindi bisogna combattere con il coltello tra i denti, direi, per evitare assolutamente questa prospettiva, che sarebbe molto negativa per noi. Questo dal punto di vista della valutazione sua. E vorrei capire se secondo lei invece il rischio forte che ci siamo costretti. Guardi, anche da un punto di vista della valutazione alla europea, diciamo così, le valutazioni vengono fatte in termini strutturali, cioè al netto degli effetti negativi, in questo caso del ciclo economico. Quindi se il peggioramento del deficit è causato da una congiuntura peggiore di quella che ci si attendeva, non dovrebbe esserci una correzione di questo deficit. La ringrazio, grazie a Sergio De Nardis, capo economista di Nomisma, e saluto di nuovo, perché ce l'abbiamo già avuto ieri, però avevo promesso che ci sarei tornato su questo tema, Carlo Signorelli, vicepresidente della Società Italiana di Igiene e presidente designato, tra l'altro. Signorelli, bentornato. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. E mi scusi per i tempi brevi di ieri. Allora, il dato sul quale vogliamo tornare è questo meno 25% di vaccinazioni da morbillo e rosolia in Italia. Come si diceva ieri, è un dato preoccupante. Perché è un dato preoccupante? Molti ci scrivono: il morbillo ce l'ha avuto, la rosolia ce l'ha avuto, non è un problema. In realtà è un problema, perché sono malattie che possono avere degli effetti pericolosi. Ce li spiega, Signorelli? Sì, anzitutto diciamo che il meno 25% è il picco estremo di qualche ASL italiana, di un fenomeno che nella media ha visto una diminuzione di qualche punto percentuale, quindi c'è un trend in diminuzione, 25 è il picco. Abbiamo, per quanto riguarda la vaccinazione consigliata morbillo, parotite e rosolia, una situazione un po' più critica legata a voci che poi si sono rivelate infondate, di presunti effetti collaterali della vaccinazione, in particolare quella del morbillo, che avrebbe causato, secondo questi dati poi smentiti, l'autismo. Questa è una decina di anni che girano questi articoli, sono stati smentiti, addirittura si è evidenziato che i dati sono stati truccati nel lavoro che era arrivato a queste conclusioni, però purtroppo il messaggio che arriva è quello di un possibile rischio vaccinale. Le ripeto, Signorelli, ci dica quali sono invece gli effetti del, perché ieri l'abbiamo accennato, però giusto per chiarire ai nostri ascoltatori, il vaccino per il morbillo è stato scoperto nel 63, se non sbaglio, no? E prima i morti si contavano a milioni, perché noi tendiamo a considerare una malattia dei bambini che prende, passa e va. In realtà il morbillo è in grado di uccidere. Il morbillo è in grado di uccidere in una percentuale bassa, ma sui grandi numeri si parla di qualche decina di morti all'anno per panencefalite sclerosante, che è la più grave delle complicazioni del morbillo, che è una malattia virale che nel 99,9% dei casi si risolve come vi scrivono gli ascoltatori, quindi con l'esantema e con la febbre, e qualche volta dà casi mortali. Questo ha indotto le autorità sanitarie di tutto il mondo a suggerire e a consigliare fortemente il vaccino per tutti i bambini tra il 12° e il 15° mese, per evitare di prendersi questa malattia e rischiare quella complicazione, ripeto, rara ma possibile. Io la ringrazio, signorelli, grazie a Carlo Signorelli, vicepresidente della Società Italiana di Igiene e presidente designato. Questo è un tema sul quale torneremo. Questa è la penultima puntata di Effetto Giorno prima della pausa estiva. C'è ancora domani, poi ci fermiamo, e quindi se non riusciamo a tornarci domani, cosa che mi sembra improbabile, sicuramente a settembre ci torniamo. Grazie signorelli, una pausa, ci ritroviamo tra poco per i mercati, oggi particolarmente importanti perché va molto male la borsa italiana. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, c'è chi già sta cercando di immaginarsi che cosa succede in Vaticano stasera con i due papi, o meglio domenica sera con i due papi a confrontarsi per la finale. Svizzere? E le guardie svizzere neutrali, neutrali per definizione. No, meravigliosa comunque, la finale dei due papi, già sui social network girano diverse fotografie molto divertenti, ma è così, si vede che era destino, stelle o fato. Senti, noiosissima la partita di ieri. Un orrore. Sì. O meglio, una grande partita dal punto di vista tattico e difensivo che sarà piaciuta magari moltissimo ai cultori della tattica e della difesa, magari del catenaccio, però è stata veramente l'apologia del catenaccio, due squadre che hanno smesso dopo 20 minuti di provare a fare qualche cosa e sono andate fino alla fine pensando se una delle stelle si accende, Robben da una parte o Messi dall'altra, magari succede qualcosa. Nessuna stella si è accesa e alla fine la stella è stato portiere della Sampdoria Romero, che ha fatto due parate straordinarie ai calci di rigore. Francamente è difficile immaginare una vincitrice diversa dalla Germania. Tra l'altro in questo mondiale, curiosamente, ogni pronostico è stato praticamente rispettato. Senti, Messi ben chiuso ma anche inesistente, diciamocelo. Messi... E questo è il limite di Lionel Messi, che comunque sta facendo un eccellente mondiale, però queste partite devono essere quelle, storicamente così, devono essere quelle griffate dai grandi campioni. E lui evidentemente non ha quantomeno la personalità, il carisma per caricarsi la squadra sulle spalle. E ieri sera praticamente inesistente, aveva tirato un grande rigore, anche questo conta, però non è riuscito ad essere Messi. Adesso ha una finale a disposizione, quella che potrebbe essere quella della sua consacrazione. Tutto materiale per tutti convocati a partire dalle 14 naturalmente. Noi adesso parliamo di musica. Gli amanti del jazz l'avranno riconosciuto, eh? Herbie Hancock, al via da domani a Perugia, 41esima edizione di Umbria Jazz, uno dei festival più importanti del mondo. Quest'anno tradizione che si unisce al rinnovamento, lo spiega il direttore artistico Carlo Pagnotta al microfono di Adriana Fracchia. Apriamo con una grande serata di soul, poi abbiamo quello che qualche giornale intitola l'edizione del rinnovamento, perché apriamo a una grande serata di DJ. Sabato cominceranno alle 4 del pomeriggio, finiranno alle 4 di notte, e poi potremo avere l'esclusiva italiana di Roots, gruppo di hip hop, quindi ecco perché si parla dell'edizione del rinnovamento, ma ovviamente i grandi di jazz saranno tutti presenti, a Herbie Hancock, a Wayne Shorter. Siamo soddisfatti perché questo ormai è una manifestazione importante, non solo per l'Umbria ovviamente. Ecco, lei ogni anno nel dover affrontare il complicato cartellone, immagino che dovrà fare dei numeri incredibili, però insomma Umbria Jazz ci vengono tutti gli anni questi grandi, quindi vuol dire che è una tradizione che non vogliono perdere. Beh, oddio, la battuta potrebbe essere basta pagarli, però effettivamente il palcoscenico è uno dei più importanti in Europa e dicono anche nel mondo. Come riesce a compiere questo miracolo ogni anno? Anche se il denaro privato scarseggia, vista la crisi, non dimentichiamo il ruolo delle istituzioni, specialmente la Regione Umbria. Penso che nessuna regione in Italia finanzia un festival jazz come lo finanzia la Regione Umbria. Allora,